una cattiva notizia per una cattiva legge. È una cattiva notizia sapere che il disegno di legge Fini sulle droghe comincia il suo iter parlamentare. È una cattiva notizia perché è un cattivo disegno di legge. Un disegno di legge già criticato ampiamente dagli operatori del settore, un disegno di legge che punta sulla repressione, sulla criminalizzazione del consumo di droghe, su cui viceversa c'è appunto una opposizione molto vasta che si è già manifestata anche in strada, ma in mille prese di posizione, convegni, iniziative pubbliche. Voglio segnalarne una che ci sarà ancora tra qualche giorno, organizzata dal Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza, appunto contro il disegno di legge Fini. E detto questo, non credo che sia un disegno di legge che avrà vita facile e non è detto che arrivi a compimento, perché è un disegno di legge che va contro le esperienze maturate in tanti anni di intervento sociale sul fenomeno delle tossicodipendenze e perché appunto avrà un'opposizione vasta nel Paese oltre che nel Parlamento. Peraltro appunto si tratta di una proposta propagandistica ormai quasi esclusivamente di una parte politica, Alleanza Nazionale, che in questi termini vuole giocare le proprie carte all'interno della coalizione di governo. Non è detto che ci riesca, faremo di tutto perché non ci riesca.